In diretta su CRM Happy Radio, va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. 11.03 minuti primi, buongiorno a tutti, questa è Slalom, io sono Francesco Puglisi, staremo insieme fino alle ore 13 in diretta su questa splendida radio che si chiama CRM, Cefalù Radio Madonie. 0921 92 32 92 335 56 37 251 sono i nostri numeri telefonici a vostra completa disposizione per quanto concerne le vostre richieste, ma anche i vostri saluti, dediche, quello che volete, insomma, per intenderci. Vi ricordo inoltre il nostro sito internet che è www.crmepiradio.it, all'interno del quale potete anche cliccare la canzone che desiderate e scrivere anche quello che volete. Inoltre vi ricordo che potete iscrivervi all'interno di Facebook, dove siamo noi presenti con uno spazio dove c'è questa community, e vi permetterà comunque di essere informati per tutto quello che succede all'interno della radio. Oggi è il 126esimo giorno all'inizio dell'anno, la Chiesa Cattolica festeggia San Giovanni a San Lucio di Cirene e la luna è calante, quindi comunque sta riempendosi piano piano. Oggi sono nati parecchi personaggi importanti e meno importanti: Chris Brown, Arianna Ciampoli, George Clooney, Tony Blair, Bob Seger, cantante famosissimo, e poi abbiamo Rodolfo Valentino e Sigmund Freud, psichiatra e il padre della psicoanalisi. Cominciamo subito con la musica, questa è la prima richiesta che è giunta all'interno della nostra trasmissione, e vi voglio ricordare comunque che oggi, a partire da oggi, avremo un amico che ci collabora, che è la Sicilia Sail, una scuola di vela e del mare, che è una crociera di scuola, corsi di vela e di altura. Le nostre crociere scuola sono la scelta giusta per chi vuole vivere l'esperienza di navigare. Ancora, partiamo subito con la musica. Lui ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni. Si sentono gli eroi, se il gioco si fa duro da giocare, beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini.

che siete arrivi tra i gelati e le bandiere, non fate più scommesse sulla fiera. Allora, come consuetudine, abbiamo in diretta un amico che ci viene a trovare spesso telefonicamente, che è il nostro caro amico Antonio Presti. Ciao Antonio, ben trovato. Pronto? Buongiorno a tutti. Buongiorno, come stai? Tutti. Stamattina sei un po' con il piede di guerra. No, siamo sempre ad affermare come la cultura, dopo tanti sacrifici, gli ho fatto questa fiumara d'arte nel patrimonio tenebro di un grande parco di scultura monumentale che io ho donato alla regione siciliana. Purtroppo assisto a un degrado morale di una politica che è incapace di rinnovarsi e di proporre altri valori di cambiamento. E tutta la questione culturale dell'associazione, delle fondazioni, ogni anno vengono discusse all'interno, ecco, di una tabella H, che è una tabella della vergogna. Una tabella che ogni anno promiscuamente crea una connessione tra il mondo della cultura e il mondo del clientelismo, di tutti i deputati regionali che segnalano le loro associazioni, i loro interessi. Ecco, mi sembra un qualcosa che questa volta il governo doveva, la regione siciliana, in funzione anche della finanziaria, secondo me doveva dare un segnale molto più politico, molto più altro. Certo. Invece di essere altro, è stata confermata tutta questa tabella H, dove fra l'altro esiste anche un finanziamento per la fiumara d'arte di 80.000 euro, e questo modo, almeno per me, dove che io ho donato tutto il mio patrimonio alla regione siciliana, non penso che l'esistenza di questo patrimonio che io ho donato può essere mutuato come senso di futuro in questi termini, in questo modo, a mercanteggiare un'esistenza di un sacrificio, per esempio come quello mio, di tutta la vita. Certo, sì. E allora oggi io sento, anche perché il commissario non ha ancora confermato la conferma del bilancio, il commissario dello Stato, io oggi voglio fare un atto politico-culturale dove, se da una parte un sistema della politica non riesce a riproporre l'altro, ci può essere una politica culturale che dice: no, la togli tu la tabella H, ma io non ci voglio stare nella tabella H. E quindi io penso che la rinuncia alla tabella H da parte della Fondazione Fiumara d'Arte e anche al contributo che era stato destinato mi sembra una logica e un'affermazione politica importante per dare un chiaro segnale alla regione siciliana che la cultura non può essere trattata al pari di un compromesso clientelare che ogni anno si matura all'interno della finanziaria, e questa tabella H è il simbolo di questo degrado morale di coscienza. Quindi sto comunicando ufficialmente, anzi mi fa piacere che voi siete i primi a sapere questa mia posizione, che stiamo mandando i comunicati stampa, proprio per denunciare questa politica incapace di cambiare e di cambiare per seguire la via del merito e non della clientela. E questo è il messaggio più importante che la cultura deve dare: non pietire l'elemosina di un contributo, ma affermare la distanza del valore politico di scelte etiche che solo la cultura e il valore della differenza può affermare. Del resto, se noi vogliamo crescere come paese, come regione, come popolazione, dobbiamo puntare molto sulla cultura, e quindi comunque la storicità del nostro territorio è importante. Dico bene. È importante, e non può continuare questa offesa continua da parte del potere di turno a non guardare, non riconoscere nella cultura al primo posto come valore non solo di coscienza ma anche di cambiamento di un popolo e della sua identità culturale. Quindi questa tabella H è l'offesa più forte che la cultura può subire ogni anno da parte della regione siciliana. Io sinceramente non ci sto più, non ci voglio stare, e mi ritiro da questo gruppo che appunto si identifica in questo modo. Quindi sto manifestando questo mio dissenso e anche questo mio senso politico, ecco, di essere altro e di essere anche di ammonimento a una politica che purtroppo nella sua autoreferenzialità della clientela non riesce a togliersi addosso. Va bene, mi lascia un po' la mare in bocca, perché comunque tu indubbiamente sei ferito da tutta questa situazione, però io credo che ci debba essere un passo indietro da parte della Regione Sicilia e debba puntare molto di più sulla tua persona e soprattutto sulla tua storicità che hai dato come esempio nello sviluppo del territorio dei Nebrodi. Antonio, anche questa testimonianza è la testimonianza di un esempio che non accetta la clientela di turno, ma accetta sempre l'eticità del fare. In questo periodo dico che tu di testimonianze ne hai dette veramente tante, dovresti essere un po' da esempio per tutti coloro che vogliono fare determinate cose. Io ti ringrazio innanzitutto di aver accettato la nostra intervista, ti ringrazio di aver scelto CRM come prima radio per questo comunicato, e ti auguro un mondo di vita, una buona vita per il tuo futuro, e noi ci sentiamo sempre. Grazie Antonio della tua collaborazione. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Here I am waiting, I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come, we knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know meraviglia canzone questa mattina di Maroon 5, Daylight, che si trova ai primi posti della vendita dei dischi. Continuiamo ancora con la musica, salutiamo Alessia che ci ha richiesto questa bella canzone di Daido, non No Freedom, la canzone che si intitola così, dai. Take it by your silence, I'm free to walk out the door. By the look in your eyes, I can tell you don't think I'll be back for more. Try to think of a world where you could stay and safe hands could go. Take your heart above the water, wherever I choose to go. No love without freedom. No love without freedom. No love without freedom. No freedom. Notizie curiose, idee e tanta musica. Tumbling down in the city that we love.

Sento una dolce evasione negli occhi che mi hanno guardato così. Trova una buona ragione, qualcosa da fare per dirmi di no. Fuori c'è un sogno che aspetta soltanto i tuoi baci per vivere un po'. Baci per vivere un po' più in alto di questo cielo. Impossibile cadere giù se distesi in un prato di stelle. Qualcosa già esiste, che lo voglio o no. C'è un'emozione che aspetta soltanto i tuoi baci per crescere un po'. Baci per cantare un po' più in alto di questo cielo. A Sail, la scuola di vela del mare, crociere a scuola, corsi di vela di altura. I corsi di vela sono corse basse, corso intermedio e corso avanzato. Per maggiori informazioni potete direttamente chiedere tramite info@siciliasail.com oppure potete collegarvi al sito che è www.siciliasail.com oppure potete chiamare al 347 60 09 16. Slalom. Flashback. friends are swinging in bed of the big disease with a little one. Bad chances, girlfriend came across the needle, soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Hurricane and he ripped the ceiling off the church, he killed everyone inside. You turn on the telly and every other story you're telling you somebody dies. Sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it and was sending people to the moon. September my cousin tried leaving for the very first time. Now this doing horse, it's true. But if a knife falls on the bone, falls on the moon, you'll never see the dawn. Six out of the time, the rest of the night, you'll be told it's too late. There's a fire, and you're young, and you're cold, and maybe it's a boy. Early morning, late afternoon. Erano gli anni 80 quando la Kinsey and the Sunshine Band cantava questa bella canzone intitolata Are You a Boogeyman? Ma indubbiamente di lavori strani ce n'è tanti, ma questo che arriva dall'altra parte del mondo, precisamente dalle Americhe, ed è fatto da Reynoso, è stranissimo perché è il collaudatore di materassi fatti a mano. Infatti lui con i piedi ci salta addosso e cerca le imperfezioni all'interno di essi. È un lavoro dedicato, sostiene lui, anche perché si tratta di materassi che il cliente paga piuttosto profumatamente, quindi pretende la perfezione. Come lui stesso ha dichiarato, è un lavoro e non è neanche per tutti, c'è un modo giusto per ed uno sbagliato di farlo. Non è un gioco, racconta Reynoso saltellando sul materasso. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you used to lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Rewind it back, the day before Tuesday. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shot me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not. But I'm in love, I'm in love. Messed it up. Cause I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Ask her what you gon' say. I'm a sucker when she pulls her game. Adesso parliamo di Sicilia Sail, la scuola di vela e del mare, crociere a scuola, corsi di vela e di altura. Le nostre crociere scuola sono la scelta giusta per chi vuole vivere l'esperienza di navigare su barche a vela veloci e divertenti e nello stesso tempo imparare tutte le nozioni base sulla navigazione. I corsi di vela sono tre, si dividono su un corso di base di primo livello per coloro che non hanno esperienza, poi un corso intermedio di secondo livello per coloro che hanno frequentato già il primo livello e hanno una minima esperienza, e poi il corso avanzato, un terzo livello, per coloro che hanno frequentato un corso di secondo livello e hanno una buona esperienza di cabinati o in possesso della patente nautica a vela. Per chi fosse interessato può collegarsi direttamente al sito www.siciliasail.com ed inviare un'email all'indirizzo info@siciliasail.com. Inoltre avete a disposizione anche un numero di telefono che è il 347 60 09 106. Chi si presenta a nome di CRM Piradio e soprattutto di SLA non avrà un ulteriore sconto sulla partecipazione del corso. Inoltre la Sicilia Sail organizza escursioni in barca a vela e lì trovate tutte le informazioni del caso, e quindi mi raccomando, presentatevi al nostro nome, avete un ulteriore sconto e soprattutto l'opportunità di conoscere le coste siciliane. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was L'editore Angelo Arduino, il direttore Mario Lombardo, la redazione e i collaboratori di CRM Happy Radio porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Borsellino. Slalom finisce qui, vi augura un buon proseguo di giornata. Salutiamo Sicilia Sail, la scuola di vela e del mare, e il nostro appuntamento, come ben sapete, per venerdì, sempre stesso orario, dalle 11 alle 13. Da Francesco Puglisi è tutto, vi augura buona vita.